affare fatto, ma con prezzi di saldo, la metà esatta. E allora votate su radio24.it, Filippo Areggi ride dall'altra parte del vetro, contento per questa storia del secolo XIX. Allora, vi chiediamo, i genitori non pagano la retta della mensa, è giusto lasciare i bimbi con un pranzo da serie B nelle mense scolastiche? Radio24.it, ne parliamo dopo GR24. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah, ha esordito così. Che era il battito di mani, come dire. Ma cosa stai dicendo? Vabbè. Trionfo. Allora, stasera si gioca Napoli Juventus. Sì, spererei molto che si giocasse stasera e che soprattutto si concludesse con un risultato diverso. Ormai un disguido nel disguido nella messa in onda nel GR, ce ne scusiamo con gli ascoltatori. Invece la partita è finita 3-1 per il Napoli. Oh, lo ribadiamo per chi non lo sapesse. Allora, buongiorno, parliamo di banche. Bene. Visto che dobbiamo parlare di brutte notizie, di brutti argomenti, e quantomeno così lasciamo il calcio e andiamo ad un altro terreno di conflittualità. Lasciamo. Oltre a quello fra me ed Alessandro sul calcio, Lo lascio anch'io per questo turno infrasettimanale. Allora, andiamo a soldi e dintorni. Ieri c'è stato un convegno a Roma e si parlava di qualità dei servizi e di relazioni fra istituti di credito e clientela, e Anna Maria Tarantola, che è il vice direttore generale di Banca d'Italia, ha detto che ci sono commissioni poco chiare, scarse informazioni al cliente, modulistica e accesso ai servizi, soprattutto per la banca online, da perfezionare. Quindi i miglioramenti nei rapporti fra banca e cliente, anche se hanno fatto tanti passi in avanti negli ultimi anni, sono ancora deboli e le norme sulla trasparenza fanno fatica a decollare. E poi la dottoressa Tarantola ha fatto anche un punto della situazione sull'attività dell'arbitro bancario finanziario, che è questo nuovo istituto. La sua attività è partita da ottobre e al 22 marzo, quindi un bilancio davvero molto fresco, sono pervenuti a questo tavolo circa 950 ricorsi da parte ovviamente di clienti bancari, con un forte trend di crescita. Praticamente i ricorsi a questo istituto crescono in misura del 25% al mese. Allora, noi abbiamo colto l'occasione di questo bilancio per tornare a fare il punto sull'attività dell'arbitro bancario finanziario. A cosa serve questo tavolo, dove si possono dirimere le controversie fra noi come consumatori e clienti di una banca e la banca stessa? Allora, stamattina ci aiuta un super esperto di conciliazioni, dottor Sergio Veroli, che è presidente di Consumer Forum. Presidente, buongiorno, bentornato a Soldi e Dintorni. Buongiorno, grazie per il super esperto. Allora, Consumer Forum, io lo voglio ricordare, è un'organizzazione indipendente che fa dialogare le associazioni dei consumatori con le imprese proprio attraverso tavoli di conciliazione. Quanti ne avete fatti negli ultimi anni con le banche, presidente Veroli? Guardi, con le banche saranno 30-40 mila, e nell'ultimo anno soltanto con Banca Intesa per i casi di Parmalat sono stati circa 11 mila. Allora, quindi sì. No, dico, sono conciliazioni paritetiche, cioè sono conciliazioni che avvengono tra associazioni dei consumatori e banca, che è molto diverso sia dalla conciliazione, sia dall'arbitrato e sia dall'arbitro bancario e finanziario gestito dalla Banca d'Italia. Ecco, questo ha fatto molto bene a spiegarcelo, proprio perché negli ultimi anni sono sorte molte modalità per poter risolvere in maniera, io vorrei dire, pacifica, ma senza, come dire, la via giudiziale le controversie appunto con le imprese. E il terreno bancario è stato, ahimè, purtroppo, l'abbiamo raccontato molte volte, molto frequentato. Sull'attività dell'arbitro bancario, presidente Veroli, intanto questo tasso di ricorsi, siamo arrivati a 950 da quando il tavolo è stato istituito, da quando l'arbitro è stato istituito ad ottobre. Cosa pensa di questa tendenza? Penso che sia molto positivo che ci sia questo arbitro bancario e finanziario. Penso che sia molto positivo che la Banca d'Italia si interessi in un modo organizzato e strutturale dell'utenza, dei problemi dell'utenza. Questo arbitro bancario e finanziario è una commissione di 5 persone, 3 nominati dalla Banca d'Italia, uno dalle banche, una dalle associazioni dei consumatori e delle imprese, che risolve delle controversie riguardanti conti correnti, mutui e prestiti personali. È un modo stragiudiziale, cioè fuori dalla giustizia ordinaria, rapido e anche economico. Basta che il cittadino si rivolga a una filiale della Banca d'Italia, versi 20 euro e quindi può dare avvio a questa procedura, dopo naturalmente aver fatto un reclamo. Ci sono circa 4-5 mesi in cui si svolge tutta l'istruttoria e tutta la pratica, quindi mi sembra una buona, un'ottima cosa. Infatti, volevo ricordare anche che ci sono praticamente 3 collegi istituiti in Italia, uno a Milano, uno a Roma e uno a Napoli. Allora, lei prima ci ha parlato anche di altri istituti attraverso i quali è possibile risolvere controversie di determinato tipo, ha parlato della, oltre che dell'arbitro bancario per l'appunto, dell'arbitrato e anche della conciliazione. Facciamo un punto di differenze fra i 3 istituti, Presidente Veroli. L'arbitrato è una istituzione nella quale le 2 parti si rivolgono a un terzo, il quale ha l'onere di fare la proposta e decide lui. La conciliazione è un altro istituto per cui le 2 parti si rivolgono a un terzo, il quale facilita l'accordo fra le 2 parti. L'altra è quella delle associazioni dei consumatori, che hanno fatto con le aziende, con le banche, molti accordi, e qui il discorso è diverso. Il cittadino si rivolge all'associazione dei consumatori, che lo rappresenta nei confronti della banca, concorda con la banca se possibile un'eventuale soluzione, e l'ultima parola spetta al cittadino. Anche questa è rapida, gratuita e molto garantista per il cittadino, che ha l'ultima parola. Nello stesso tempo si sta creando, dovrebbe entrare in funzione fra poco, il conciliatore della Consob, che riguarderà gli aspetti finanziari, la compravendita di azioni e obbligazioni. E infatti, perché quello è il terreno, diciamo, ancora scoperto, nell'ambito del quale l'arbitro bancario non ha alcuna competenza di intervenire. No, per quei problemi appunto i cittadini possono rivolgersi adesso alle associazioni dei consumatori, che hanno già fatto migliaia di conciliazioni sui casi delle obbligazioni, azioni, Cirio e Parmalat. Volevo ricordare che per il ricorso all'arbitro bancario finanziario c'è un limite, che è la richiesta di ristoro al cliente, che non deve superare i 100.000 euro. Nessun limite c'è invece se si chiede di accertare diritti, come la mancata cancellazione per esempio di un'ipoteca dopo che il mutuo è stato estinto. E ricordo anche che, visto che questo arbitro bancario è entrato in vigore, l'attività è entrata in vigore a regime da ottobre, le controversie che si presentano a questo tavolo non possono riferirsi al periodo precedente al 1 gennaio 2007, Presidente, se non ricordo male? Esatto, ma c'è un'altra cosa importante, sì, che mi sembra utile sottolineare per l'arbitro bancario finanziario, e cioè che quando la Banca d'Italia viene a conoscere dei problemi che gli presentano i cittadini, li conosce anche come istituto di vigilanza, quindi può utilizzare le cose che viene a conoscere anche per risolvere problemi all'interno delle aziende, di organizzazione, di governance, eccetera. Quindi è come se si denunciasse anche alla Banca d'Italia che le cose non vanno in quella banca, e quindi questo mi sembra importante sia per la Banca d'Italia sia per la banca stessa, che può correggere certi comportamenti. Presidente, solo in 10 secondi di tempo, anche se in realtà la domanda che le voglio fare richiederebbe un'altra ora di approfondimento, conciliazione, arbitro bancario, i tavoli che lei ci ha spiegato, l'arbitrato, non servirebbe, secondo lei, ci ha parlato anche dell'introduzione del nuovo arbitro appunto in seno alla Consob, ma non sono un po' troppi questi tavoli, lo obietta qualcuno, non servirebbe invece una razionalizzazione un po' più chiara per i consumatori? Sì, servirebbe, ma servirebbe anche e soprattutto che le banche tenessero conto di tutti i problemi che sorgono e risolvessero a monte i problemi che ci con sono. Con i propri uffici reclami, che se funzionassero bene quelli saremmo già a cavallo, in sostanza. Presidente, grazie, ci sentiamo presto, buona giornata. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci. Alessandro, io oggi è Salva Draghi, ritorno sulle polizze dormienti dopo che il governo settimana scorsa ha cancellato la retroattività della prescrizione, una situazione un po' complessa per cui la stiamo seguendo tutte le settimane. La buona giornata. Alle 12. Ciao, ciao. Anche a te. E allora noi torniamo sul caso, l'ultimo di cronaca era quello di Montecchio, Vicenza, dove alcuni genitori non hanno pagato la retta per i bambini, per la mensa, e quindi alcuni bambini sono visti servire un pranzo di serie B, diciamo così, rispetto ai compagni di classe. Ma non è l'unico caso, ce ne sono stati diversi nelle varie scuole. Il problema è questo: che si fa quando i genitori non pagano le rette? Sono le 8:33 minuti e ben ritrovati da Alessandro Milan. Le ultime notizie, ultimo giorno di campagna per le regionali. Ieri Berlusconi ha attaccato l'UDC, votare loro e fare un favore alla sinistra, ha detto. Il leader del PD Bersani sarà oggi ai cancelli della Fiat a Mirafiori. Intanto il presidente di Confindustria Marcegaglia dice politica violenta, lontana dai problemi reali. Il Vaticano reagisce all'attacco del New York Times per il quotidiano. Joseph Ratzinger, quando era cardinale, coprì un sacerdote americano responsabile di abusi su bambini non udenti. Per l'Osservatore Romano è un evidente ignobile intento di arrivare a colpire a ogni costo Benedetto XVI. Francia e Germania hanno trovato ieri a Bruxelles un compromesso sul piano di aiuti alla Grecia, che in serata ha avuto il via libera dei 16 paesi dell'Eurogruppo. L'intesa prevede prestiti bilaterali degli stati della zona euro e un contributo del Fondo Monetario Internazionale. E infine per il calcio, il posticipo ieri di Serie A: Napoli ha battuto 3-1 la Juventus, ha raggiunto così i bianconeri al sesto posto in classifica. Allora, 8:34 minuti, parliamo della vicenda che nei giorni scorsi ha portato agli onori della cronaca Montecchio, ma che ha riguardato anche altri comuni in passato, vale a dire: se i genitori non pagano la mensa dei loro figli nelle scuole, che si fa? Che si fa? Si dà ai bambini un pranzo diverso, un pranzo, qualcuno dice, di serie B, oppure no, sui bambini non bisogna farlo. E questo è il tema del nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Niente mensa a chi non paga, oppure un pranzo di serie B? I genitori non pagano, che si fa? Si dà un panino e una bottiglia d'acqua invece della pasta asciutta, la carne, come agli altri bambini? Questo perché bisogna in qualche modo rispettare le regole, chi non le rispetta deve adeguarsi. Questa è la nostra domanda su Radio24.it. Devo dire che il 56% per ora dice sì, è giusto così, se uno non paga non può ottenere un servizio. Voglio salutare intanto il sindaco Milena Cecchetto, sindaco di Montecchio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Della Lega. Allora, la situazione si è risolta, intanto diciamo così, nel senso che hanno pagato, si sono messi in regola. Questa è la prima notizia che possiamo dare, no? Cioè, tutti hanno lo stesso pranzo adesso, i bambini. Tutti i bambini hanno lo stesso pranzo. Bene. Allora, il tema che l'ha portato all'onore della cronaca è questo. Qualcuno ha titolato "A pane e acqua i bambini i cui genitori non avevano pagato la retta", addirittura. Sì, titolo assolutamente equivoco, nel senso che l'iniziativa che è partita da questa amministrazione non è stata tanto riferita agli insoluti quanto all'adesione al servizio mensa. In questo senso posso dire tranquillamente che è stata politicamente strumentalizzata tutta la vicenda, appunto perché noi avevamo chiesto ripetutamente, ovviamente dall'inizio della scuola al primo marzo, di fornire quello che è il modulo di adesione, ovvero di manifestare pagare. L'intenzione di affidarci i figli per pranzo. Quindi tutto il discorso degli insoluti, che comunque ci sono e sono massicci e ingenti, è stato tutto manipolato. Poi, cioè, voi avevate dato un termine, entro questo termine bisogna dire se aderite alla mensa. Chi non l'ha fatto, a un certo punto voi avete detto vabbè, ci sono persone che non hanno aderito, no? E allora capisce, però l'accusa è stata: è quello lo strumento? A quel punto ci si rifà sui figli, sostanzialmente. Cioè, ci sono stati dei bambini che per qualche giorno si sono trovati, invece del pranzo degli altri, un pranzo così alternativo, possiamo dire di serie B? Diversamente avrei dovuto lasciarli definitivamente fuori dalla mensa, cioè non farli accedere, perché teoricamente ci dovrebbe essere stata un'organizzazione con dei badge piuttosto che con dei ticket. In mancanza del ticket il bambino avrebbe dovuto essere lasciato fuori dalla mensa, quindi la nostra preoccupazione era quella di aver fornito comunque, malgrado la mancata adesione, quindi la mancata prenotazione del pasto, un pasto sostitutivo per il bambino. Sai che c'è chi ha proposto, per esempio, credo il Codacons, come contrappasso dovremmo mettere il sindaco a pane ed acqua per una settimana, così a vedere come si prova, cosa si prova. No. Ho risposto al Codacons dicendo che tante volte a pranzo o a cena manco quello, calcolando quanto c'è da fare in amministrazione pubblica. Ah, vabbè, quindi la pane e acqua per lei sarebbe un lusso alcuni giorni. Alle volte sì. No, però lei, cioè, non, tra l'altro, siccome è sindaco, l'ascoltano, voglio salutarli. Marcello D'Orta, buongiorno. Marcello D'Orta è stato insegnante. Io speriamo che me la cavo, insomma, lo ricordiamo sempre. E il nostro Alberto Pellai, posso dire nostro Alberto, buongiorno. Ciao Alessandro, buongiorno a tutti. Alberto è psicoterapeuta dell'età evolutiva. Poi insomma, con la nostra Nicoletta Carbone, voglio ricordare, conduce Questa Casa Non È un Albergo il sabato alle 12. Allora, sindaco, sa, l'accusa è stata: ma i bambini sono bambini, cioè lei si immagina un bambino che si siede alla mensa e vede che invece della pasta asciutta, del piatto che hanno tutti gli altri, si dice no, a te panino e bottiglia d'acqua. E questo si chiedeva perché, e lascia stare panino e bottiglia d'acqua. Sì. L'alternativa sarebbe stata di lasciarlo fuori. Ancora peggio, certo, sì. Questa sarebbe stata addirittura... Qualcun altro ha fatto così, e questo veramente sarebbe stato molto peggiore, perché comunque si va a far mancare... Ma invece l'alternativa terza, cioè dargli il pranzo comunque e fare in modo che insomma si riscuotessero questi soldi, cioè comunque preservare il pranzo del bambino, cioè non metterlo di fronte anche a questo imbarazzo, vedere il compagno di classe che c'ha la pasta asciutta e lui no. Fatto da settembre fino al 22 marzo 2010. Ah, quindi per alcuni mesi lei dice abbiamo continuato così. Sì, è stato fatto. Allora, rimanga con noi, sindaco. Vorrei da Alberto Pellai, innanzitutto non è un caso isolato, appunto, ci sono stati vari casi, no? Nelle scuole, io ricordo anche a Milano, nel milanese. Da psicoterapeuta dell'età evolutiva, che pensa un bambino, secondo te, in quel momento? Ma direi il sindaco, io vedo le ragioni del sindaco, però dico anche al sindaco che avrebbe potuto essere lì il giorno in cui la sua decisione veniva applicata e avrebbe dovuto un po' metterci la faccia proprio di fronte ai bambini, si sarebbe resa conto che quella che oggettivamente così a freddo sembra una decisione anche politicamente, diciamo così, regolata e da qualcuno condivisibile, nel mondo dei bambini in realtà è una reale violazione. E ieri io a cena ai miei due bambini che frequentano la scuola elementare ho proprio detto: voi che cosa avreste pensato, come avreste... E la loro risposta immediata è stata: ma cosa c'entrano i bambini? E mi sento di ribadirlo, cioè il bambino è proprio soggetto di diritto. E do un caso concreto: a volte i genitori si dimenticano i bambini a scuola, ma questo non autorizza la scuola a lasciarli fuori dal cancello senza supervisione. Cioè c'è proprio bisogno, rispetto alla loro vulnerabilità, che qualcuno se ne prenda cura. E se succede per 100 giorni consecutivi che il genitore è inadempiente, la scuola è luogo di educazione e di protezione. E mi sento, ultima osservazione, io ho letto alcune osservazioni fatte dalla dirigente scolastica della stessa scuola, non era d'accordo col sindaco, il che mi fa dire che la prima cosa è generare un'alleanza educativa tra chi prende le decisioni e chi di quei bambini si prende la responsabilità. Cioè la tutela dei bambini viene prima di tutto. Significativo anche questo caso, questo esempio che dici: se per 100 giorni paradossalmente venissero, diciamo così, dimenticati, o ci fosse una dimenticanza dei genitori, per 100 giorni la scuola dovrebbe comunque occuparsene, o 101 o 102. Non so se Marcello D'Orta è d'accordo, ma credo di sì. So che è stato molto critico anche lui del sindaco, e così potrà rispondere a tutte le nostre critiche. Fermo restando naturalmente che le regole vanno rispettate, per cui si doveva trovare un sistema per punire questi genitori. A me sembra che questa vicenda dimostri che secoli di pedagogia sono stati messi sotto i piedi, perché gli stessi insegnanti che vanno ad insegnare studiano psicologia dell'età evolutiva e studiano pedagogia, e quindi quando stanno davanti a un ragazzo non stanno soltanto davanti all'alunno, stanno principalmente davanti a un ragazzo, per cui conoscono benissimo le sue reazioni emotive, tanto per cominciare. E quindi colpire i genitori attraverso i figli significa, ripeto, mettere secoli di pedagogia sotto i piedi. E mi sembra però il sindaco dice: noi per mesi, da settembre a marzo abbiamo dato il pranzo a tutti, poi gli abbiamo dato un pranzo, è vero, un po' diverso per fare questo gesto. Cioè che dobbiamo fare? L'alternativa addirittura era lasciarli fuori dalla mensa, no? Dice D'Orta. No, questo no, io allora per la parte tecnica, cioè come risolvere la situazione, io adesso non ho al momento, come dire, delle direttive specifiche, sì, ma la sì. Cosa certa che io ho è che non si possono colpire i genitori attraverso i figli, perché si tratta, guardi, di una doppia punizione, fisica e psicologica. fisico, perché naturalmente il ragazzo è costretto a mangiare quello che gli altri non mangiano, e psicologico perché davanti ad altri ragazzi devono vedere gli altri che mangiano altre cose, e poi c'è una sorta di mortificazione, perché davanti agli occhi dei bambini il prestigio dei genitori di scema, quindi c'è tutto un mondo. Poi non dimentichiamo che fino a qualche tempo fa si è detto basta con i pasti etnici, a scuola ci deve essere un menù unico, no? Si diceva l'integrazione, questo era lo slogan, sì, l'integrazione sì. Nasce in mensa. Allora prima diciamo che l'integrazione nasce in mensa, per cui non ci deve essere il cibo del musulmano e il cibo del cristiano, mettiamola così. E poi invece c'è il cibo di chi ha pagato e il cibo di chi non ha pagato, e allora qua c'è una contraddizione. Allora, secoli di pedagogia sotto i piedi, adesso risponde al sindaco. Vediamo anche qualche ascoltatore, ci state chiamando in tanti al 800 24 00 24. Devo dire che sul sito il sindaco invece riscuote successo, meglio la decisione, il 71% dice è giusto così. Intanto io voglio andare ad Antonio dalla provincia di Milano. Antonio. Sì, buongiorno. Vorrei anzitutto sottolineare che sono assolutamente d'accordo con quanto è stato detto dai suoi ospiti in studio. Mi pare di capire sono che sono tre, però due, alcuni la pensano in un modo, altri in un altro. Cioè, lei che dice, no, è giusto, mi spiego meglio, è giusto lasciarli senza con un pasto di serie B? No, dal mio punto di vista non viene valutato il danno al bambino. Il danno questo al bambino. È il punto. È quello che hanno detto i suoi ospiti studio, sì. È veramente emblematico da questo punto di vista. Io volevo portare una mia esperienza, se ho il tempo, molto rapidamente. Il servizio da parte del comune, che tramite un'associazione Onlus gestisce l'asilo, dovrebbe garantire tutti gli aspetti, che sia la mensa ovviamente, ma che sia anche per esempio il riscaldamento, perché invece durante l'inverno ovviamente i bambini devono stare in condizioni ambientali idonee. Nel momento in cui il servizio da questo punto di vista viene meno, il genitore ha il diritto di difendere il proprio bambino, quindi tutelando da eventuali danni alla salute anche, sospendendo la retta. Quindi sto ribaltando la situazione. Cioè, ma al mancato servizio genitore può legittimamente sospendere la retta? Ma è una domanda che lei fa. Ma insomma, questo però non era il caso, cioè non è che il servizio fosse scadente dal proprio genitore, ma adesso ce lo dirà magari il sindaco dopo il traffico, che o si erano dimenticati o non avevano i soldi o erano una trascuratezza, non lo so, insomma non avevano pagato la retta. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, giusto il principio di lasciare, insomma, agire nei confronti dei bambini se i genitori non pagano la retta. Sindaco Cecchetto, lei ha detto in apertura è stato strumentalizzato politicamente. Io forse mia dimenticanza non l'ho detto, lei è sindaco eletto dalla Lega dal giugno del 2009. Siccome, sa, ci sono molti messaggi che ci dicono, ce lo chiarisca, è stato strumentalizzato, è stata attaccata anche da questo punto di vista. Non è che erano soprattutto figli di immigrati? Ci vuole spiegare la situazione? Posso dirle sinceramente che non è mai stata fatta questo tipo di distinzione, ho sempre guardato le cifre in un totale di 1032 utenti, pertanto non sono neanche adesso in grado di dirle la percentuale di non stranieri piuttosto che di italiani. E allora alle accuse, insomma alle critiche che le ha fatto per esempio dottor Pellai, che dice ma guardi che se anche il genitore sbaglia 100 giorni di seguito, la scuola ha il dovere di intervenire come messaggio educativo e mai rivalersi sui bambini, anche Dorta ha detto questo. Pienamente d'accordo, non sono stati 100 giorni, sono stati 6 mesi. Abbiamo portato il principio, anche se fosse un anno, dice Pellai, cioè capisce il significato del messaggio, cioè anche se fosse sempre, anche se tutti i giorni i genitori fanno così, questa è la critica che le fanno. Non so come facciano a farmi una critica di questo genere, nel senso che voglio dire bisogna distinguere quello che è il diritto alla formazione e quindi il discorso del bambino da tutelare all'interno della struttura scolastica. Distinguiamo dai servizi a domanda, per i quali se io non ricevo la domanda non ho nessun obbligo, quindi non c'è nulla da tutelare e c'è solamente da sottolineare quello che può essere la mancanza totale di interessamento da parte dei genitori, così come di uno dei miei dirigenti scolastici che erano perfettamente informati e hanno assolutamente ignorato quello che poteva poi essere la conseguenza di una comunicazione come quella che poi la mia è stata una richiesta di aiuto nei loro confronti di gestire un servizio appunto che non è obbligatorio, ma è un optional al diritto alla formazione sacrosanto di cui stanno parlando. In allora, vediamo un altro ascoltatore, Mohammed, dalla provincia di Como. Buongiorno. Sì, buongiorno. Che dice? Io ho due figli, una di mia figlia di 5 anni e il bambino di 4, e mi sento costretto di farli mangiare in mensa perché ovviamente non c'è un'alternativa, quindi non c'è un altro posto un servizio, dove questi insomma, bambini si possono portarsi il bambino e mangiarselo a scuola. Certo. Quindi io non posso dire ai miei bambini voi non potete, cioè dovete andare da un altro posto. Ecco, e secondo lei, se lei si dimentica o non paga la retta, dovrebbero ai suoi figli insomma fare che cosa? Insomma? No, non devo fare niente ai miei figli. Io sono sempre stato indietro con le rette, ma li ho sempre pagati, quindi no, ai miei bambini non è mai successo niente, sinceramente. Però mi sento costretto a far mangiare per forza i miei bambini alla mensa. Vabbè, ma insomma, costretto è un servizio, insomma, lei paga per avere un servizio. E in ogni caso, Pellai, molto duramente, alcuni dei nostri ascoltatori pragmatici che con i messaggi ci dicono: al ristorante si va per caso senza soldi? No. E quindi se uno no, non paga e vuol fare il furbo, insomma qualcosa bisognerà fare, si capisce, i bambini, tutelare i bambini, però qualcosa deve fare questo sindaco per recuperare questi soldi, che cosa può fare? Sì, non credo che al ristorante i bambini entrano da soli, scelgono, mangiano e poi se ne vanno, cioè io... ci tengo a ribadire che la mensa scolastica è un servizio dentro un luogo che si chiama scuola ed è un luogo da sempre deputato alla tutela e alla protezione dei bambini. Ora, ci sono genitori inadempienti di questi bambini che non regolano il conto del servizio mensa del quale i bambini usufruiscano. Questi genitori chiaramente sono genitori fuori dalle regole e bisogna fare tutto il possibile per comprendere come mai sono fuori dalle regole, il che significa che probabilmente prima ricevono messaggi a casa, poi ricevono ancora messaggi a casa, però qualcuno va da loro e ci mette la faccia, cioè stabilisce un contratto, definisce delle regole, perché per quello che racconta il sindaco, se la dirigente scolastica e il sindaco non si sono mai incontrati intorno a un tavolo, ma si sono probabilmente mandati degli avvisi che non sono stati rispettati, qua secondo me manca un po' un tavolo di lavoro. Questo non so, sindaco Cecchette, così, cioè c'è un raccordo, c'è stato un dissidio con il dirigente scolastico, oppure vi siete incontrati, avete messo a punto e qualcuno non ha rispettato quello che doveva rispettare? Ci siamo sempre incontrati, c'è una continua comunicazione con i dirigenti scolastici, anche perché abbiamo due comprensivi, quindi non è che ne abbiamo molti, pertanto la comunicazione è pressoché quotidiana. Continua. Senta, le posso chiedere se non è un'intrusione nella sua vita privata? Qualcuno ce lo chiede se lei ha figli? No. Nessun problema, rispondo volentieri. No, quindi non si può porre il problema nel caso fosse un suo figlio a trovarsi o a fianco, quello a fianco che non ha la pasta asciutta come lui, oppure lui stesso o lei stessa che non ha la pasta asciutta ma il panino ad acqua, cioè come non si è posta in questa situazione di possibile madre a capire... Io non mi sono posta in questa situazione del bambino, mi sono posta nella situazione di futuro genitore assolutamente critica sul fatto che ci sono genitori per i quali è impossibile non riconoscere la loro inettitudine. La loro mancanza totale di responsabilità. Mancanza totale di responsabilità. Vorrei chiudere con Marcello Dorta. Ieri lei, Dorta, scriveva sul giornale di un'altra vicenda a Pordenone, di alcuni che sono andati in una gita per cosiddetti ricchi, quelli che potevano permettersi una gita più lussuosa, sono andati a Londra, in un istituto di Pordenone. Altri che non potevano permettersi quella gita sono finiti, credo, a Monaco di Baviera, tra l'altro anche gente che ha preso i pidocchi, eccetera. È un altro emblema. Sì, ma lei mi ha anticipato, perché avrei voluto portare proprio questo esempio dicendo che il rischio di emarginazione nella scuola è sempre alto, nonostante, voglio dire, anche la buona volontà di evitarlo, però bisogna stare attenti perché magari e poi si va a prova di arginare dei ragazzi, Pordenone ha, la scuola di Pordenone ha organizzato due gite, una a Londra, diciamo così, per ricchi, 600 euro, un'altra in Germania, tra l'altro al campo di concentramento di Dachau, 280 euro, questo per offrire ad entrambe le fasce, diciamo così, economiche, due possibilità. In realtà però è successo che questi soldati in Germania sono stati ospitati, diciamo così, in un vecchio e fatiscente albergo, che pare fosse anche pieno di pucci, di zecche, e così se ne sono tornati a casa. È 280 euro che pretendeva. Tutto compreso, immagino proprio il trattamento. Allora alla fine succede che le buone intenzioni vanno a finire male, perché poi, capisce, questi è ancora una volta dividerli in ricchi e poveri, infortunati, non io parlavo di vacanzieri di serie A e vacanzieri di serie B, sì. Quindi bisogna stare molto attenti, perché l'ultima cosa che deve fare la scuola è quella di emarginare. Io mi devo fermare, ringrazio il sindaco Milena Cecchetto della Lega di Montecchio Maggiore Vicenza, così come Marcello D'Orta e il nostro Alberto Pellai. Ci fermiamo, c'è da dire sempre vincono nettamente i sì per ora, cioè giusto così al 79%. E allora grazie a Sara Spreafico in redazione, Filippo Aureggi in regia, do la linea a Oscar Giannino, ci ritroviamo, che giorno è oggi? Venerdì, lunedì, allora ci ritroviamo, bene, buon weekend.